Garibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritornati, nuova puntata di Zibaldone qui su Contrabanda FM, una puntata molto musicale ma anche, se volete, anche un po' noir, un po' poliziottesca forse. Che voglia di ballare, che voglia di scatenarci con questo Notte Improvvisa, i Calibro 35, perché lo mandiamo in onda? Lo faccio dire a te, Banzo, buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone, come tutti i venerdì. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Beh, il motivo è molto semplice, non è una puntata monografica nel senso classico del termine, ma è una puntata che comunque è dedicata ai Calibro 35, si intitola Quelli di Calibro 35, riprendendo il titolo del loro secondo album, e faremo sentire vari loro brani e intervisteremo anche uno dei membri del gruppo, Steven. Eh sì, Enrico Gabrielli, che ci accompagnerà tra poco qui in diretta su Radio Contrabanda. Insomma, parleremo della loro traiettoria ormai quasi ventennale e anche di altri progetti che Enrico Gabrielli ha portato e sta portando avanti. Insomma, loro fanno tantissime cose, tutte di altissima qualità, quindi insomma entriamo un po' nel loro mondo e ascolteremo un po' della loro musica. Banzo, questo brano, Notte Improvvisa, famosissimo, dei Calibro, è una versione però particolare. Vabbè, sì, allora se me la metti in questi termini, sì, è vero. Avevo altre informazioni da dare, ma le darò dopo la spiegazione del brano. E quindi sì, è un brano che ha una importanza simbolica particolare, perché è il loro primo brano autografo contenuto nell'album omonimo, che era soprattutto un album di cover, perché c'era questa operazione che è stata il loro diciamo marchio motivo di fabbrica. Originale per marchio di fabbrica, anche motivo originale per cominciare a incidere musica, che era quello di lavorare, rielaborare le sonorità di queste colonne sonore groovy di tutto un immaginario legato al genere poliziottesco e così via. E questa Notte Improvvisa appunto era particolare, perché in un album popolato principalmente di cover e di reinterpretazioni era il primo brano autografo e divenne subito molto importante nel repertorio del gruppo, al punto da essere una chiusura quasi obbligata per i concerti. Comunque ne abbiamo ascoltato non la versione classica, ma una versione alternativa, la Lap Steel Version, che è inclusa come bonus track nel primo disco, nelle versioni speciali del primo disco su vinile, perché appunto il chitarrista Massimo Martellotta la suona con una lap steel, quindi non con la chitarra normale fra virgolette, e ha un sound diciamo più blueseggiante in questo modo. Comunque, perché parliamo dei Calibre? Ecco, altre informazioni. Beh, innanzitutto perché sono molto contento di intervistare Enrico Gabrielli, perché credo non ho controllato a livello statistico, ma i Calibre 35 sono fra gli artisti più trasmessi di tutto il palinsesto di Zibaldone, perché li amiamo molto, e anche perché hanno un legame con la nostra città che diciamo è basicamente è rappresentato dai molteplici concerti che hanno avuto, che hanno fatto a Barcellona, e ce n'è uno alle porte, quindi è per quello che andiamo in onda il 28 novembre con un'intervista ai Calibre 35, perché suoneranno il 3 dicembre alla Nau presentando il loro, questa è una cosa molto spagnola, presentando il loro ultimo album Exploration. Esattamente, bravo Banzo, preciso e puntuale più che mai. E quindi noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone da Exploration, che è il nono album dei Calibro 35, 11 brani, di cui 3 composizioni originali e 8 invece cover, che è un po', Banzo, molto rapidamente un ritorno alle origini, no? Sì, esatto, perché appunto lo stavo dicendo anche prima, c'è quel ritorno al disco come luogo per esplorare un certo tipo di sonorità e rielaborarle, quindi è per quello che ci sono, c'è una prevalenza di cover. E mi correggo, ho detto Jazz Exploration, Exploration è il titolo del disco, mentre il brano che ascoltiamo adesso è Jazz Carnival. Una novità, se vogliamo, è la scelta delle cover, di alcune delle cover, che è un po' diversa dal repertorio solito, però le coordinate stilistiche sono assimilabili. C'è la celebre Lunedì Cinema di Lucio Dalla, che avevamo trasmesso tempo addietro, di Discomania di Pier Umiliani, che ricorderete dal 90° minuto, e appunto questa Jazz Carnival degli Azimuth, che divenne la sigla di un altro programma TV, Mixer di Minoli, quindi è tutto immaginario collettivo per gli italiani, e il gruppo lo presenta così, è un brano brasiliano del 79, jazz funk, un pezzo con un tema super memorabile e un groove che non lascia respiro, uno di quei brani in cui ti guardi prima di iniziare a suonarlo e ti dici ci vediamo in fondo, quindi ci vediamo dopo il brano con l'intervista. Ci vediamo in fondo per parlarne con Enrico Gabrielli, bravo Banzo, Jazz Carnival, ora sono i Calibro 35. We'll be right back. Oggi lo sapete, abbiamo con noi Enrico Gabrielli, noi siamo contentissimi e do subito il benvenuto ad Enrico. Enrico, buon pomeriggio ed eccoci grazie, qui a Zimbaldone. Grazie, ciao a tutti, ciao, buonasera. Ascolta, la prossima settimana i Calibro tornano a Barcellona, mercoledì 3 dicembre alle 21 alla Nau, a Poblenou. Quante volte siete venuti a Barcellona, Enrico? Perché ormai io ho perso il conto. Anche io. Anche io, boh, non lo so, ormai, boh, almeno 4-5 volte siamo venuti. Azzardo questa ipotesi, insomma, però sì, tra tutto facciamo 5 volte, ecco. Io anche di più. Ricordo di avervi visti già forse, guarda, ti direi 15 anni fa la prima volta che siete venuti al Marula, 12 anni fa, una cosa così. Mamma può essere. Mia, può darsi, sì, assolutamente sì, un giro che facevamo in Spagna, di altre date, facevamo anche Saragozza. Un giro molto, molto avventuroso, ecco. Sì, comunque sì. Ascolta, la prima domanda legata a questo è: voi, rispetto a tanti artisti italiani, è da molto appunto che suonate fuori, che girate l'Europa, non appunto solo la Spagna. Qual è un po' la vostra percezione del pubblico che trovate all'estero? E magari, se hai dei ricordi, più precisamente anche a Barcellona o alla Spagna, ci sono delle differenze riguardo il feeling che avete voi rispetto al pubblico italiano, o in realtà non ci sono così tante differenze? È una domanda interessante in realtà, perché siamo un gruppo strumentale intatto, quindi c'è un dato di fatto che intanto non abbiamo nessun tipo di confronto con la lingua, quindi nessuna identificazione lessicale del pubblico che ci canta sopra, che questa è una cosa che fa molta differenza se sei in un paese rispetto ad un altro. Un gruppo strumentale, in più gruppi strumentali hanno anche pregi e difetti di essere un po' più freddi nel rapporto col pubblico, quindi siamo molto concentrati sul suonato. Poi io sono quello magari che deve dire due cose, però in realtà sostanzialmente parliamo molto poco, quindi noi andiamo sul nostro concerto un po' testa bassa, e a volte dimenticandoci anche un po' in qualche maniera del contesto, quindi potrebbe esserci 500, 1000, 2000 persone, 3000 persone, 50 persone, per cui a volte all'estero come in Italia abbiamo lo stesso tipo di attitudine, non percepisco un cambiamento così radicale. Chiaramente poi all'estero vuol dire anche tante cose, vuol dire che qualche volta abbiamo fatto concerti più specificatamente con il pubblico italiano, altre volte invece abbiamo fatto concerti che erano decisamente per il pubblico locale. Mi ricordo un concerto a Manchester, un posto molto bello in realtà, dove non c'era traccia di italiani ed era una serata decisamente inglese, per cui c'era gente che si stava facendo il suo sabato sera ascoltando noi, e ricordo insomma che appunto io, avendo un pessimo inglese, mi sono posto qualche problema nel fare i miei discorsi dal palco. Ecco, un po' quello che cambia magari è quello, anche per me a volte parlare, sì. Però insomma, ecco, non so se sono riuscito a rispondere, però è ancora in fieri, ecco, una domanda a cui ancora ci sto pensando. Comunque ci penseremo anche magari la prossima settimana, quando vi vedremo di nuovo qui a Barcellona. Esatto. Ascolta, sono passati 6 mesi ormai più o meno dall'uscita del vostro ultimo lavoro Exploration, che è anche quello che state portando in giro in tournée, e ci sarà la possibilità di ascoltarlo anche qui a Barcellona. Ritornate un po' alla formula, chiamiamola così, originale, no? dei Calibro, quando sono nati ormai quasi 20 anni fa. Riproponete, diciamo, nel vostro stile brani altrui, alcuni anche molto noti al pubblico. Sì, è vero. Addirittura siamo tornati da una formula ancora primigenia, prototipica, diciamo, perché Calibro 35, il primissimo concerto che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in Olanda, in Belgio, ad Hasselt, il secondo Lussemburgo, e quei due concerti, ricordo, eravamo seduti, cioè eravamo a sedere, poi dopo abbiamo cominciato a stare in piedi. Adesso questi concerti li stiamo facendo in parte seduti, cioè in giacca e cravatta seduti, per cui in qualche maniera siamo, forse anche per anzianità di servizio, abbiamo bisogno delle sedie. E poi sì, abbiamo un po' ripreso in maniera disinvolta anche a suonare il repertorio non nostro, brani celebri, più o meno celebri, in questo caso appunto che hanno a che fare un po' con una nostra reinvenzione del jazz, ma anche delle sigle televisive della dell'Italia anni 60-70 della Rai, con cui siamo cresciuti, per cui è un immaginario in bianco e nero. Sì. Ecco, se vogliamo dire, un po' abbiamo ripreso quel periodo della nostra vita in cui eravamo legati alla musica per immagini preesistente, ma adesso lo facciamo un po' in bianco e nero, un po' black and white, se così mi permetto di dirlo, insomma, cioè, sì. Siamo più un film noir che un film poliziottesco. Sì, ecco. Sì. Ascolta, guarda, su questo c'era un'altra cosa che volevo domandarti. Appunto, tu facevi questo riferimento alle serie televisive, all'importanza anche del cinema in realtà per come è nato il vostro progetto, per molti dei dischi che avete fatto, no? Lo possiamo definire un progetto un po' così cinematico. Ecco, ma ci sono delle differenze importanti nel vostro approccio alla scrittura, ossia quando realizzate i brani, quando componete i nuovi dischi, diciamo tra il momento in cui realizzate colonne sonore, perché voi avete realizzato molte colonne sonore anche di successo, sia di cinema che di serie televisive negli ultimi anni, o quando invece realizzate degli inediti che poi finiscono su un album, o in realtà diciamo sono delle situazioni un po' intercambiabili? Dunque, cambia molto, cambia molto. Allora, per un periodo, tra l'altro, a onore del vero, il main composer del gruppo è stato Max, Massimo Martellotta, quindi molti dei singoli, diciamo così, killer di Calibro 35 sono farina nel suo sacco, ed è stato uno dei primi di noi ad approcciare anche la musica da film professionalmente intesa. Poi negli ultimi anni, in particolare dal 2020-2021, anche io mi sono messo a testa bassa con il computer, perché prima in realtà io lavoravo soltanto su carta, per cui ero, diciamo così, anche come arrangiatore o come session man, lavoravo ancora vecchio stile, ancora black, come si black and white, volta. Diciamo, no? Black and white, diciamo così. Però adesso anche io mi sono messo alla parte compositiva pura, per cui ora lavoriamo abbastanza a quattro mani, anche Tommaso, anche Fabio, da un certo punto di vista anche loro hanno un apporto compositivo, però cambiamo molto rapporto con la materia in base a quello che dobbiamo fare. Quindi, se dobbiamo fare un disco con degli inediti nostri, c'è un tipo di autorialità differente. Poi, in particolare, in quest'ultimo album qua ci sono pochi inediti, però questi inediti qui sono presenti in un film, un film documentario su James Ellroy, che è uscito al Festival del Cinema di Roma quest'autunno. Per cui anche qui comunque c'è stato un veicolo cinematografico. Però poi, ad esempio, quando ci approcciamo alle serie televisive, che sono adesso in questo periodo, negli ultimi quattro anni in particolare, il core della nostra attività lavorativa, perché abbiamo fatto tre stagioni di una serie che si chiama Blanca, e adesso il remake di Sandokan, che sta per uscire primi di dicembre in Italia, lì c'è da fare un lavoro che è di più di quantità che di puntualità, per cui devi fare tanto, tantissimo, senza, come dire, rischiare di pensare di fare qualcosa di troppo o qualcosa di troppo poco, e quindi proprio vai in velocità, lavori moltissimo col computer, lavori anche un po' separata sede, perché magari lavoriamo anche separatamente, non ci troviamo necessariamente in studio tutti quanti insieme, facciamo anche a distanza, insomma. Per cui cambia moltissimo, ed è una roba che chiaramente ci sta facendo una scuola nostra artigianale molto forte, perché ci fa pensare a quello che è stato in realtà il nostro riferimento, perché noi abbiamo cominciato lavorando proprio sulle colonne sonore di altri grandi maestri, e ora anche noi non siamo grandi maestri, ma anche noi stiamo entrando nel mondo, ad esempio, mondo della Rai, nel mondo degli sceneggiati, come si chiamavano una volta, per cui questa cosa ci fa molto piacere, ed è evidentemente un percorso che per noi era inevitabile e naturale. Ascolta, a proposito anche di questo, avete fatto negli ultimi anni tre dischi con brani di Morricone, no? Place Morricone del 23, registrato live, e prima due album tributo, Scacco al Maestro, no? Volume 1 e 2. Ci puoi parlare un po' di questo progetto, anche pensando a qual è stata un po' la scelta dei brani? Perché, voglio dire, Morricone, si potrebbero fare, non so, 100-120 dischi con brani di Morricone. Ecco, perché avete scelto i brani contenuti in Scacco al Maestro 1 e 2, in Place Morricone e non altri? La selezione in realtà deriva intanto da un primissimo concerto che facemmo a Whitechapel, no, alla Union Chapel, adesso non ricordo qual era, è un questi nomi qua, i nomi sono un disastro, a Londra. un concerto monografico che ci chiesero in realtà una parte di repertorio nostro e una parte di repertorio di Morricone. In questa prima incarnazione lo facevamo in sei, aggiunti con noi c'erano un vibrafonista che si chiama Sebastiano De Gennaro, con cui lavoro spesso anche in altre cose, e Beppe Scardino ai fiati. Lì facemmo una selezione di brani che potessero andare bene per la nostra formazione, per cui il Morricone legato al noir, un po' oscuro, ma che potesse in qualche maniera essere trasformato in forma band, per cui chiaramente abbiamo dovuto optare anche su brani che non avessero un utilizzo massiccio dell'orchestra, perché ad esempio riportare insomma, Mission in una formazione nostra è veramente un po' arduo, è anche un po' un lavoro faticosamente, insomma. In più Morricone c'è anche un po' una questione che è enorme, famosissimo, ma cercare spartiti e avere materiale editoriale è pronto all'uso è complesso, quindi abbiamo dovuto lavorare tutto quanto d'orecchio, cioè quindi ognuno di noi poi si è tirato giù la sua parte, ognuno di noi quattro tra l'altro con una modalità di scrittura differente, perché io scrivo su partitura, Massimo lavora su scrive sui codici armonici, Fabio lavora su su grafici ritmici a parole, cioè quindi cioè, ritradurre Morricone ognuno su misura su noi stessi, dialogando su un materiale che appunto è abbastanza spacca cervelli, non a caso abbiamo chiamato abbiamo usato l'esempio della partita a scacchi contro di lui, perché non è un classico omaggio amoroso sentito romantico, cioè è stato un omaggio sì, ma anche una battaglia di mind game, insomma, perché Morricone non è niente, c'è nulla al caso, è tutto molto dettagliato. Infatti la cosa che mi ha sempre impressionato della sua scrittura è come un uomo così scientifico riuscisse anche a convogliare tanta parte emotiva nella scrittura. Ed è questo un miracolo che pochissimi compositori al mondo hanno raggiunto. Io penso anche grandissimi del cinema di Hollywood, come tanti, insomma. C'è una famosa foto, tanto Ennio Morricone e John Williams, che è una foto che io tengo molto, molto a cuore, perché è proprio un incontro, non so, è l'incontro come due dei massimi esponenti del Novecento, una musica da film, cioè come una fotografia con Igor Stravinsky e Arnold Schoenberg, cioè una cosa così. Insomma. Per cui insomma è stato un po' di necessità e virtù e un po' di scelta per la formazione che avevamo, in più anche un po' di immaginario di amore di alcuni brani rispetto ad altri. Ma vi siete divertiti, anche se è stato un lavorone, no? Direi. Ma sai che divertirsi è una parola difficile. Io ricordo a un certo punto quando mi sono... Hai sofferto quasi, stavo impazzito. Io stavo soffrendo, sì. Anche perché su Morricone il lavoro il grosso di riduzione di parti e di riscrittura su propri strumenti che ho dovuto fare è stato mio, chiaramente per natura proprio di strumenti, cioè gli strumenti a fiato, gli strumenti a tastiera sono stati da parte... il core anche di alcune cose, insomma, per cui sì, no, io, sì, io mi sono maledetto io, che mi sono detto ma cosa stiamo facendo, che è un massacro, è una difficoltà allucinante. Mi ricordo il primissimo concerto che facemmo, ero agitatissimo, anche perché poi cambiavo tantissimi strumenti, cioè, insomma, tra quello posto di campagna suono il clarinetto, in altri suono il sassofono, poi il flauto, quello dopo il flauto contralto, tastiere, insomma, era abbastanza carocambolesca come cosa. Poi chiaramente una volta che possiedi il materiale, insomma, sei felice di aver imparato, anche lì è una grande scuola. Certo. Cioè stiamo facendo comunque stiamo facendo un lavoro di ricerca, poi alla fine, in un certo senso di ricerca, anche se si vuole ad ampio raggio. Ascolta, i Calibro lo sappiamo, perché qui a Zibaldone vi seguiamo tantissimo, siete iperproduttivi, fate tantissime cose e noi siamo contenti, non è una critica, ecco. E questo lo dico perché pochi giorni fa è uscito anche un non so come chiamarlo, se un EP, insomma comunque un prodotto bellissimo che si chiama Canzoncine per Bambini, che sono sei brani appunto contenuti all'interno di un box celebrativo per i 50 anni di Profondo Rosso di Dario Argento. Ecco, però in realtà no, si tratta di un falso storico, in realtà non so se lo vuoi spiegare tu al pubblico e anche spiegare un po' come avete sviluppato questo progetto. Mi fa piacere di parlare di questa cosa, perché il repertorio di Canzoni per Bambini è un repertorio a cui sono molto legato. Io ho fatto uscire un paio d'anni fa un disco che si chiama Le Canzonine, che è un disco di canzoni per bambini. Sì. Canzonine si chiama, esatto. Si chiama. No, no, questo era appunto il disco che avevo fatto io. Sì. Questo qua quindi è stata l'occasione per poter fare canzoni per bambini con i Calibro 35. L'idea in realtà è stata di Cinevox e di Mattias Scheller, che sono coloro che detengono appunto la, fanno sono quelli che stavano facendo il cofanetto, che ci hanno proposto questa idea meta cinematografica, perché Profondo Rosso è un film che ha un click a un certo punto basato su un tema di Gaslini, che è un famosissimo tema in cui c'è un bambino che canta, perché sarebbe un tema tratto da un disco fantomatico di canzoni per bambini che si chiama appunto Canzoncine per bambini, che innesca poi la follia omicida del personaggio protagonista, che non sto chiaramente a dire niente per chi non l'ha visto. Però l'idea loro è: ma scusa, perché non fare non farlo davvero questo disco qua? Così lo mettiamo nel cofanetto e per quelli che sono interessati. Quindi l'idea che ci hanno proposto è quella di scrivere altre canzoni insieme a quella storica canzone di Gaslini che c'è nel film, canzoni nostre in stile tipico di quel periodo, per cui sono state pensate in maniera un po' anni 70, per cui c'hanno ritmiche, un tipo di modo di, c'era una visione, ad esempio c'è una canzone che si chiama Gli elettrodomestici, che cita alcuni elettrodomestici che non esistono più, come ad esempio la coperta elettrica, o altre cose che sono tipicamente di anni passati, insomma. E quindi abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto un'operazione metacinematografica, sì, oppure chiamiamolo pure falso storico, in cui abbiamo ricostruito questo disco che esiste solo in quel film, e che adesso è praticamente c'è, cioè, esiste realtà, davvero, insomma. Esatto, esiste ora davvero. C'è davvero, sì. E ascolta, visto che citavi anche il tuo disco, no, le canzonine del 2023, che in comune con quest'ultimo progetto appunto il fatto di scrivere musica per i più piccoli, ecco, è un genere che è un po' passato di moda, o sbaglio, rispetto, penso, no, agli anni 60 70, Endrigo, Lauzi e così via, ecco, come lo vivi tu e come pensi a questo genere al giorno d'oggi, in un'epoca che è cambiata tantissimo? È un disastro, in realtà. La letteratura di canzoni per l'infanzia è un disastro. Io ho fatto quel disco lì, vabbè, era anche il periodo pandemico, per cui avevo bambini piccoli, la prima bimba piccola, quindi è nato come un gioco, però cioè, ho avuto proprio la spinta mia personale, io ho bisogno di fare una letteratura per l'infanzia almeno a uso e consumo privato. Perché a parte i grandi dischi storici, appunto, che hai citato tu, quindi si parla comunque di robe di prima metà anni 70 addirittura, si arriva fino alla fine degli anni 70, perché quello è il periodo in cui è stato coperto questo. Poi è cominciato tutto il mondo delle canzoni per cartoni animati, di cui tra l'altro sono anch'io un grande fan, figurati, però cioè, la scrittura è adesso per l'infanzia è più o meno grosso modo una baby dance, sono cretinate, certo, pensate grosso modo, perché si presume che il bambino adesso si associa al bambino alla musica, vuol dire uguale ballare o tenerlo buono al ristorante, più o meno grosso modo sono queste le due opzioni. Non è un caso che comunque Baby Shark sia tipo in YouTube, sia tipo a 15 miliardi di visualizzazioni, cioè tipo è il doppio del pezzo più famoso di Ed Sheeran. Perché questo, che sono gli algoritmi dei genitori di tutto il mondo, che per tenere buoni i propri figli o per farli ballare durante la festa di compleanno gli mettono queste schifezze atroci, e che tanto appunto sono piccoli stupidissimi loop con pochi ganci. E io chiaramente non è che dico che ho nostalgia, però io mi auspico in realtà a un interesse nuovo, soltanto che evidentemente sono cambiate le carte anche di vendita, cioè nel senso che non si comprano i dischi dell'infanzia per bambini, perché appunto c'è la circolazione digitale, i bambini non comprano loro stessi, quindi non sono in realtà un target di mercato. Per quanto poi, facendo questo disco che ho fatto, o queste operazioni che si fanno, i genitori poi che incontri in strada ti dicono grazie, perché almeno c'hanno qualcosa di nuovo. Anche della propria stessa generazione, per cui un genitore adesso magari c'ha appunto questo disco qua che avevo fatto io come modello, a meno se gli chiedono cosa faccio sentire mio figlio oggi, qualcosa c'hai. Però io quello che auspico è che ce ne siano tante di più, insomma. Però chi scrive canzoni da grandi, fa fatica a scrivere canzoni da piccoli, perché questa è una cosa che credo di aver capito. Quando scrivi canzoni per grandi cerchi il piccolo che c'è nel grande, quando scrivi canzoni per piccoli cerchi il grande che c'è nel piccolo, quindi è proprio è completamente diverso il tipo di... è un lavoro differente, insomma. Sì, non è un'operazione facile. Ascolta, da qui capisco che secondo me ti sei divertito però a fare questo progetto, quello sui bambini, sia da solo sia con i Calibro, no? Rispetto a quello che dicevamo prima su Morricone. Ah sì sì, questo sì, certo, questo è campo aperto, completamente libero, sì sì. Ma poi generalmente il mondo dell'infanzia applicato all'arte è un argomento che a me attrae tantissimo, mi stimola. Dato questo periodo stavo facendo in contesti più sinfonica, di didattica sinfonica, anche dei piccoli spettacoli di libro game per bambini, tanto fatti vabbè in maniera molto rudimentale da me, però con musiche, per cui i bambini in sala che possono scegliere la differenza della storia, insomma, cioè di laboratori di questo tipo ne sto facendo tanti perché sono papà con i bimbi piccoli, ma perché è un mondo che trovo un po' disincantato. Non ci sono delle vie commerciali chiare, e quindi è più interessante, perché poi i bambini sono un pubblico difficile, ma che ti dà un sacco di soddisfazioni sincere, insomma, se tu li agganci è il pubblico più sincero possibile. Due cose prima di salutarti al volo. Una, tu al di là dei Calibro, dei progetti da solista come quello delle canzonine, collabori con tantissimi artisti e tra questi ultimamente c'è stato anche un graditissimo ritorno, quello dell'orchestrina di Molto Agevole, e anche qui parliamo di un genere un po' trascurato come quello della musica per bambini, ossia il liscio. Ecco, quello che ti volevo domandare è: ma un giorno vedremo mai una mazurka eseguita dai Calibro, o dici che questo proprio è un sogno da mettere nel cassetto? No, questo è un sogno da mettere nel cassetto, perché ti dirò, Fabio, il buon vecchio Fabio Rondanini, che è uno dei migliori batteristi probabilmente di tutta Europa, fa molta fatica in realtà a fare un tre quarti zumpappa molto semplice, perché è un ragazzo troppo black and soul per questo tipo di repertorio, quindi non credo che approcceranno mai una mazurka. Ci abbiamo provato, attenzione che ci abbiamo anche provato, ma non è andata. Invece, la tua passione per il liscio da dove nasce? Ma nasce dal fatto che vengo da un piccolo paese della Toscana, e per quanto appunto mi fa pensare anche cose molto degli anziani, e quindi per un periodo liscio era una roba che in realtà non mi piaceva. Poi per un fatto mio privato, cioè per il mio matrimonio, volevo capire che musica avere, e misi in piedi un gruppo di musicisti, amici miei, per fare un piccolo repertorio di liscio che avevo ascoltato in quel periodo. E poi mi è partita la passione, ho approfondito meglio. Poi ho conosciuto la famiglia Casadei, non Raul, secondo che... Sì, sì. Secondo, che insomma, che è la parte nobile, quello che ha scritto Romagna Mia, il signore che sapeva scrivere musica, un violinista, e quindi niente, poi da lì ho cominciato a buttarmici dentro. Abbiamo fatto un po' di concerti in zona più legata al contesto romagnolo tradizionale, poi questa cosa è andata avanti. Beh, poi di tanto in tanto ci chiamano, tipo per un film di De Luigi ci sono un paio di brani di orchestrina molto agevole con orchestrina in scena. Adesso un'altra serie ci hanno chiamato, una serie con Bisio, mi sembra, in cui, perché di nuovo liscio evidentemente se ne fa poco, e quindi certo. In realtà è un territorio anche quello, come le canzoni per bambini. Ascolta, per salutarci, visto che parlavamo appunto di sogni nel cassetto, perché insomma il liscio, dici no vabbè, il liscio e il Calibro, quello mi sa che lo lasciamo nel cassetto, ma invece tu e il Calibro avete collaborato con chiunque, no, praticamente, ma c'è qualche collaborazione che insomma ancora non avete realizzato e che vorreste concretizzare nel futuro? Ce n'è una che purtroppo abbiamo perso, di cui io mi mangio le mani, perché questa è una collaborazione che avrei voluto fare in assoluto da sempre, ma che purtroppo non potremo mai fare più. Con Ornella? Con James Senese. James Senese. No, Ornella Bononi chiaramente, anche una generazione diversa, però James Senese per me, insieme a John Lurie, è il modello sassofonistico della mia vita. Cioè io come sassofonista ho quei due modelli lì, da una parte Senese e da una parte John Lurie, uno come dire verace, Sud Italia, sofferente, drammatico, e l'altro invece punk, New York, cerebrale e scalcinato. Insomma, io, questi due fuochi qua, purtroppo appunto James non c'è più. C'è rimasto John Lurie, chissà, magari mi sembra un quello, John Lurie, però, allora bisogna lavorarci su questo. Bisogna lavorarci, sì. Ascolta Enrico, grazie davvero di essere stato con noi. Ci vediamo mercoledì prossimo per goderci Calibro 35 a Barcellona. Buon pomeriggio. Grazie mille, è stata una bellissima intervista. Ti ringrazio molto di avermi chiamato. Stuck in a quiet storm, but there's a fire inside. You can hold it tight, it lifts the weight I feel, singing a simple tune. The world don't seem as dark when I let it out, singing. A quiet storm, but there's a fire inside. Lost in the fading night, I hope I see a light. A shield, soft body holds you near, and when you hum them notes, then you remember why. 'Cause there's a fire inside, you can hold it tight, stuck in a quiet storm, but there's a fire inside, lost in the fading night. I hope I see a light. Saudita Bin Salman senza freni, un pericolo crescente per gli altri utenti della strada e per i pedoni. Dissidenti non mostrano consapevolezza e pentimento e ieri ha distrutto un edificio. In retromarcia Meloni e Giorgetti pronti a collaborare, poi l'appello a Mattarella per favore può voltarsi dall'altra parte. La coppia che viveva con i tre figli in un casolare in Abruzzo senza acqua, luce e servizi. Chiarisce, il nostro partner non è l'offerta finale a Kiev. Lavoriamo a quello di Trump. Siamo una famiglia semplice che promuove i conti pubblici e alza il rating dell'Italia. Trump al capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Bignami, fammi risolvere questa dannata guerra, è assolutamente inadeguata. I due leader lavorerebbero a un piano segreto in 28 punti, non invasivi e a basso prezzo, con un giovane ingegnere di Recanati che prevederebbe un cessate il fuoco dopo 23 anni e subito la cessione di parte dei territori al Venezuela. Siamo una famiglia felice, cui è stata tolta la responsabilità genitoriale. Così Forza Italia celebra fuori da una discoteca a Milano la giornata della giustizia negata e lancia quasi 4.000 magistrati nella morsa del gelo artico. Alcuni sono stati perfino gettati nell'Arno. Vabbè, avete sentito che sono tornate le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, beh, guarda, insomma, non so se vuoi dire qualcosa su Bignami leader, perché io non credo che sia proprio un leader, ma detto ciò, insomma, lascio a te commentare telegraficamente le ultimissime di questa settimana. Allora, innanzitutto Steven, non leader, perché queste sono notizie serie, questo è importante. Vero, vero. Poi, scusa, Ragione. Odiosa ma necessaria. Poi Bignami e Trump che si rivolge a Bignami è abbastanza volgente, in effetti non voglio approfondirlo. Sono le ultimissime piene di famiglie, cioè Forza Italia che è felice nonostante non abbia più la responsabilità genitoriale. Non ho capito, forse non volevano i figli, che devono essere i vari figli legittimi di Berlusconi, suppongo. E a livello logistico è piuttosto strano, Steven, perché festeggiano questa giornata della giustizia negata a Milano in discoteca, ma poi, cioè, Milano fa freddo, ma il gelo artico non è lì, ovviamente, e poi non capisco da Milano come fanno a gettare i magistrati, alcuni di questi 4.000, nell'Arno, cioè nel senso anche lanciandoli con molta forza a Firenze non ci arrivano. Quindi logisticamente è una cosa piuttosto misteriosa, ma torniamo al brano che abbiamo ascoltato prima. Sì, infatti ci siamo ascoltati Drowning and Burning di questo 2025, che è l'opening di una serie di cui abbiamo parlato prima con Enrico Gabrielli, Blanca, terza stagione, una serie TV che va in onda sulla Rai, e qui Calibro 35 e Banzo sono accompagnati dal palermitano Davide Shorty. Sì, esatto, perché benché la musica dei Calibro sia eminentemente strumentale, non sono mancate le incursioni canore, ne sentiremo anche un'altra, e diciamo che è sempre un livello leggermente diverso, perché ovviamente la presenza della voce arricchisce la musica, non che abbia bisogno di essere arricchita, però ovviamente la porta su coordinate leggermente diverse. E in questo caso abbiamo venature blues e soul, appunto, portate dalla voce di Davide Shorty. E sì, comunque abbiamo parlato con Gabrielli del loro impegno come autori di colonne sonore. E passiamo adesso però a un altro progetto di Gabrielli, lo avevi annunciato anche tu prima, che non ci sarebbero stati soli Calibro in questa puntata. No. L'orchestrina di Molto Agevole. Andiamoci a sentire questa polca Felicità. dai Banzo, so che stai ballando scatenato da buon romagnolo. L'Orchestrina è molto agevole, uno dei progetti di Enrico Gabrielli, ce l'ha raccontato prima come è nato questo progetto, no? Un modo estemporaneo per il suo matrimonio ormai più di 10 anni fa. Questo brano Banzo però invece è molto recente, è del 2025, Polca Felicità, ed è contenuto in un 45 giri, il lato B, che si intitola Sogno Casadei. Ecco, Sogno Casadei è importante per capire da dove sorge questo brano, no? Raccontacelo un po'. Beh, innanzitutto ti devo correggere, non ballo perché appartengo già a una generazione di romagnoli incapaci di ballare, perché c'è una specie di cesura storica, e diciamo che i più attempati erano i maestri del ballo, io purtroppo già. Oh, comunque il lato A di questo singolo, che è quello che dà il titolo, ha una storia molto affascinante che meriterebbe un'intervista a parte, Steven, perché Gabrielli lo definisce il primo brano medianico della storia del liscio. Ecco, non, aspetta, attenzione, per gli ascoltatori, non mediatico, ma medianico con N di Napoli. È giusto, perché l'ho detto quasi ridendo, adesso sgridami tu perché stavo ridendo, perché è una cosa molto sorprendente. Primo brano medianico perché nasce da una melodia ricevuta in sogno nel 1998, quindi c'è stato un lungo periodo di riflessione, dal forlivese Leo Farinelli, e non abbiamo altre informazioni, purtroppo non abbiamo colto l'occasione di chiederla a Gabrielli perché è un discorso da approfondire. E comunque abbiamo sentito questa Polca Felicità, che ha un testo che io trovo fieramente e tipicamente liscio, cioè orgogliosamente tautologico, proprio con queste ripetizioni. Comunque l'Orchestrina di Molto Agevole ha un immaginario che è quello di Secondo, non quello di Raul. Sì, questa è una detto, cosa che va specificata, è più filologico, se vogliamo. Infatti ha attirato le attenzioni di Riccarda Casadei, la figlia di Secondo, non a caso, nella ricerca di questa purezza quasi filologica. Tanto che lo scorso anno, con la etichetta di Riccardo, è uscito un album di inediti dell'Orchestrina, A noi piace il liscio. Ma noi siamo veramente ormai agli sgoccioli, già purtroppo, di questa puntata di Zibaldone, quindi andiamo avanti. Ne parlavamo prima con Enrico anche di questo progetto, un progetto personale uscito nel 2023, Le Canzonine. Andiamoci ad ascoltare questa Il treno fa, in collaborazione con I Cani. Il treno fa ciuccio, fa ciuccio, fa ciuccio. Il treno fa ciuccio, fa ciuccio, fa ciuccio. Il treno fa ciuccio, fa ciuccio, fa ciuccio. Il treno fa ciuccio, fa ciuccio, fa ciuccio. Il treno va giù, giù, giù, giù, giù, giù. Il treno va su, su, su, su, su, su. Il treno va giù, giù, giù, giù, giù, giù. Il treno va su, su, su, su, su, su. Il treno va sul ponte, va sul ponte, va sul ponte. Il treno va sul ponte, va sul ponte, va sul ponte. Il treno va giù. Il treno entra in stazione, entra in stazione, entra in stazione. Il treno entra in stazione, il treno entra in stazione. Il treno entra in stazione, entra in stazione, entra in stazione. Ecco la gente sale su, presto riparte col ciu-ciu. Il treno fa ciuccio, fa ciuccio, fa ciuccio. Il treno va su, su, su, su, su, su. Il treno va giù, giù, giù, giù, giù, giù. Il treno va su, su, su, su, su, su. Il treno va giù, giù, giù, giù, giù, giù. Poi c'è lo scambio e il treno va più veloce. Stazione, il treno entra in stazione, il treno entra in stazione, entra in stazione, entra in stazione, il treno entra in stazione, il treno entra in stazione, il treno entra in stazione, entra in stazione, entra in stazione. Ecco che il treno è entrato in stazione, noi andiamo a fare colazione. E queste sono le canzonine, no? Il primo disco a 47 anni da solista di Enrico Gabrielli, uscito nel 2023, ce lo raccontava prima proprio Enrico, un disco banzo nato in tempi di Covid, no? Per intrattenere, ce lo diceva Enrico, i bambini in casa, ma anche con una riflessione su tutto quello che è, insomma, la musica per bambini ai giorni nostri, non un bel panorama rispetto a quello degli anni 60-70, Endrigo, Rodari, Savona, Vinicius de Moraes, Bruno Lauzi, Hans Silvestre, eccetera. E qui c'è anche una cosa... anche solo il fatto, Steven, che se pensi in Uffo Robò il basso lo suonava Ares Tavolasti, è una cosa che ho detto circa 6.000 volte nella mia vita, non so se l'avevo ancora detta a Vivaldone. Sì, l'avevi detta, ma va bene, va bene, hai ragione, no, hai fatto bene a dirlo. Però, ascolta, qui c'è però una cosa particolare da dire, no? Questo con Enrico prima forse non ne siamo entrati molto nei dettagli, che questo disco è tutto di collaborazioni con dei cantautori papà, no? Come anche chi accompagnava Enrico in questa Il treno fa. Sì, le voci sono diverse, abbiamo Andrea Laszlo De Simone, Cosmo, Giovanni Truppi, Francesco Bianconi, quindi è un po' la creme della scena italiana. Poi effettivamente non avevo riflettuto sul fatto che fossero anche papà, perché avevo letto i nomi e basta, perché non è che si sa molto sulla vita privata di questi artisti, cioè non sono come Taylor Swift adesso e ci interessa di più la musica. E comunque diciamo che è una delle occasioni più bizzarre, se vogliamo, per sentire la voce di Niccolò Contessa, cioè i cani, che con il suo progetto madre, diciamo che sta su tutt'altre latitudini, e probabilmente non lo ritroveremo in questi panni molto insoliti, col treno che accelera ed decelera e lui di conseguenza. No, è bello questo progetto, e secondo me dà appunto centralità di nuovo anche alla musica per bambini, che, come ne parlavamo prima con Enrico, è praticamente sparita, almeno quella di qualità. Ascolta Banzo, noi ormai ci stiamo veramente avvicinando alla fine dello Zibaldone, però come sempre abbiamo tempo per un ultimo trago, e in questo ultimo trago, in quest'oggi però ci manteniamo, no, diciamo, sulle rotaie, visto che parlavamo di treni dei calibro 35. Sì, ma al tempo stesso deviamo, perché ci troviamo probabilmente in un punto di interscambio fra due linee, e quindi deviamo un po', perché è un brano dei Calibro, ma è ancora una volta una cover, ed è una cover cantata, come accennavo prima, e la canzone è l'immortale L'appuntamento, resa celebre da Ornella Vanoni, che, come tutti sappiamo, ci ha lasciato all'età di 91 anni lo scorso 21 novembre. È una figura leggendaria, quindi abbiamo una puntata allo studio, è assolutamente dovuta e necessaria. Sull'appuntamento è difficile dire qualcosa di originale, però per rimanere alla triste attualità, la stessa Ornella Vanoni era così legata al brano da chiedere all'amico Paolo Fresu, il trombettista Paolo Fresu, di eseguirla insieme a un altro grande classico che è Senza fine al suo funerale. Quindi il legame con la canzone di Ornella Vanoni, diciamo, è testimoniato anche da questo aneddoto. Eh sì, un brano brasiliano, Sentado a Beira do Camino, di insomma parecchi anni fa, la versione che noi ci ascoltiamo di Calibro del 2008, e il testo italiano, attenzione, era stato opera di Bruno Lauzi, che abbiamo già citato in questa puntata. Una canzone comunque, io direi, che tutti conosceranno, hanno sentito, no? L'originale portoghese era scritto da Eramso e Roberto Carlos, no? Questa interminabile attesa di una persona con cui si ha un appuntamento, però non diciamo altro, ascoltatevi il testo se non lo conoscete ancora, o se non ci avete mai fatto caso. Noi Banzo ritorniamo venerdì prossimo. Esatto, adesso ci ascoltiamo questo brano cantato da Roberto Dell'Era, non ricordo se l'avevamo detto, e a questo punto aspetto che tu mi lanci la palla. Te la lancio, dai. Allora, come era solito dire, il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, diceva tutti i venerdì alle 17:55. Facile oggi, ragazzi, andate a vedere il calibro 35 e mi raccomando, fate attenzione a schivare le pallottole vaganti. Oh, bravo Banzo, buon venerdì sera, buon fine settimana, l'appuntamento calibro 35, Roberto Dell'Era, e un omaggio a Ornella Vanoni, ovviamente. Los